No, l'incontro è stato soddisfacente soprattutto in termini del clima costruttivo che abbiamo riscontrato. C'è molta attenzione da parte del governo nell'ascoltare le nostre tesi e anche con risposte puntuali sui diversi problemi sollevati. Io me lo auguro. Quello che io vorrei sottolineare è stato comunque la positività del clima in questo incontro, di cui a fronte dei nostri rilievi, anche in alcuni casi anche abbastanza precisi, abbastanza serrati, c'è stata una risposta puntuale del governo, abbiamo captato una volontà comunque di affrontare i problemi nei tempi resi possibili dalla fine della legislatura e di dare delle risposte il più possibile concrete alle nostre segnalazioni. Ecco, direi che più di questo non possiamo segnalare. Mi auguro che poi si traduca in un'azione, in un risultato positivo per tutto il nostro Paese.